chiameranno, ti chiameranno, io ti sento, certo, anche a Radio 24 a tutti i convocati, eh. Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Buongiorno a tutti, siamo ancora all'Expo per questo venerdì, che più che venerdì, non avessi il timore di apparire troppo poetico e sdolcinato, definirei un sabato del villaggio dello sport italiano. Stiamo ancora aspettando tutto, alle 17 causa pioggia. È stato posticipato, sono stati posticipati gli incontri della Vinci e della Pennetta agli US Open. Abbiamo i primi risultati delle prime prove del moto mondiale che giochiamo in casa a Misano, attesi domenica 100.000 spettatori. Ebbene, prime prove, Marquez davanti a tutti, secondo Lorenzo, Valentino Rossi solo sesto, ma siamo all'inizio. E poi abbiamo l'Italia del basket che ieri ha perso contro la Serbia, ma una gara in cui Pianigiani ho la sensazione abbia giocato di conserva e di riserva, perché in fondo eravamo già passati. Prossimo avversario domenica 18:30, giusto per aspettare il derby di Milano, ci fosse ancora bisogno di qualcosa, giochiamo gli ottavi di finale contro Israele. Poi cos'altro c'è? C'è Aru che oggi dà di nuovo l'assalto alla maglia rossa. Insomma, a me sembrerebbe il sabato del villaggio, senza scomodare Leopardo. E invece papà di Pierluigi, ciao Pier. Ciao. Beh, insomma, ciao. Hai ragione, è veramente uno di quei giorni, di quei weekend in cui la forza dello sport a 360 gradi, non soltanto del calcio, la bellezza dello sport proprio emerge con la sua capacità di emozionarci, di divertirci. Quindi sono eccitato anch'io dal basket moltissimo, ovviamente dal weekend calcistico straordinario che stiamo per vivere, da questa doppia semifinale Valentino Rossi, siamo abituati. Potrebbe quasi dire che è una roba. Sì, no? Però siamo poi abituati, però arrivare da primi in classifica, da primi in classifica nel moto mondiale a Misano, 100.000 spettatori, è un evento clamoroso, possiamo dirci la verità, perché Misano c'è tutti gli anni, Valentino Rossi è una vita che ci emoziona, però questo weekend, questa corsa incastonata in questo weekend ha un sapore particolare. Non so se hai la sensazione anche tu, Pier, magari controtendenza, che il calcio sia quasi sullo sfondo, sia quasi la tappezzeria di questo weekend. È ovvio che c'è il derby. Aspetta, ma c'è pure il Frosinone di Roma, ma c'è pure Fiorentina Genoa, ma c'è pure Empolina. No, io ti dico sì, è bello se accogliamo l'occasione culturale per leggere la gazzetta alla rovescia, come dice un gruppo abbastanza popolare su Facebook. Bravissimo. Però insomma, secondo me poi il calcio è protagonista in questo weekend tantissimo. Juve-Chievo sabato sera, una partita per esempio già delicatissima, già fondamentale. Poi martedì arriva la Champions, ma secondo me vale tutto. Ma sai, poi io la contraddizione non sto dando giudizi di valore, Pierluigi, no, certo. Attenzione. No, sono d'accordo con te, beh, che di fronte a delle pagine dello sport italiano strepitose, perché questa nazionale, è vero che siamo agli ottavi di finale, quindi è ancora tutta da fare, però sembra avere del talento, quindi per provare a fare delle cose. Tra un po' arriva anche il nostro amico Portente, parleremo con lui anche dell'Ital Basket. Poi l'impresa del tennis è un'impresa senza precedenti nella storia dello sport italiano, due italiani in semifinale agli US Open, quindi è qualcosa di fuori dal mondo. E Valentino Rossi è un fenomeno a prescindere, cioè non c'è neanche bisogno di ricordare la classifica, non c'è neanche bisogno di usare delle parole. Esatto, usare delle parole, quindi questo sicuramente è vero, però insomma il calcio pure è molto molto arrabbiante in questo weekend. Sì, no, ma ieri dicevo, mi piacerebbe trovare le parole per descrivere, senza le immagini, perché noi per radio non ce le abbiamo, le emozioni che questo weekend, le sensazioni che questo weekend ci può dare. Allora, sentiamo, dimmela, di basket, perché ci siamo dimenticati di farlo sulla Serbia, infatti abbiamo perso. Vuoi ricordare il tuo pronostico, ovviamente, caramantico, Italia-Israele? Fatto ma ieri finirà. Non l'ho fatto perché eravamo in corso d'opera, no? Esatto, quindi... no, ma Italia-Israele come finirà? Beh, ma Italia-Israele perdiamo di misura, dai, perdiamo... Ah, di misura, so, vabbè, peccato, 83 a 81 perdiamo, 83 vabbè, a 81. Segnatevi il pronostico. È sacra, è sacra, e andrò avanti fino alla fine. Senti, ti faccio sentire cosa ha detto Allegri sul Chievo, perché domani c'è questa partita... che fosse stata in un altro momento, fosse stata in un'altra situazione, sarebbe stata una partita quasi banale, mentre domani la Juventus dovrà non solo vincere ma trasmettere delle sensazioni a un Pueblo bianconero che è un po' in subbuglio. Allegri, poi andiamo con il traffico. Da domani inizia un mese dove giochiamo una volta ogni 3 giorni, quindi ogni partita sarà molto importante e quindi va affrontata senza pensare a quella successiva, soprattutto quella di domani, dove ripeto, in campionato abbiamo ancora 0 punti e quindi bisogna iniziare a fare i primi 3 punti. Non sarà facile, però bisognerà farlo per forza. Pardo, che è un mito per tutti noi che seguiamo il calcio. Tutti convocati. Convocati. È chiaro che aspettiamo anche gli ascoltatori, 800240024 in questo sabato del villaggio globale sportivo italiano che ci propone tutti gli eventi possibili. C'è chi dice giustamente che in questo sabato del villaggio non italiano ci sono anche Manchester, Liverpool, Atletico Madrid, Barcellona, ma certamente. C'è chi provoca dicendo ma i fenomeni quanti ne hanno presi ieri dalla Serbia, riferendosi alla nazionale di basket, un ventello però ieri, e ne parliamo dopo. Ho la sensazione che Pianigiani abbia giocato con un occhio sulla lancetta, sì, delle energie, ma poi ne parliamo con mordente, Pier. Sì, dimmi. No, volevo dire una cosa tanto, che anch'io ho un po' paura del trionfalismo, penso che voglio bene a questa nazionale di basket come fosse proprio la mia squadra del quartiere, perché la nazionale un po' perché viene anche di persone che conosco e che, sì, e che sono amici, quindi proprio veramente faccio un tipo da ultra esagerato, però dico anche che in effetti poi ne parliamo con Mordente, però questa mi credo che ci sia tantissimo talento e poco gioco, o comunque meglio gioco, delle grandi prodezze individuali, un giocatore pazzesco che è Gallinari, un altro giocatore, sì, pazzesco, lo metto un filo sotto, ma altrettanto pazzesco che è Beninelli, tanto altro talento diffuso, però ecco, a livello di difesa non mi sembra che siamo, cioè, alcune delle nostre imprese, a parte la partita con la Spagna che è stata meravigliosa in replica, perché stavo facendo la Juve contro il Boca, ma le altre praticamente l'ho viste tutte e ti dico che per poco ci capisco, mi sembra che comunque dal punto di vista della difesa non sia la squadra migliore al mondo, anche dal punto di vista del gioco, quindi questo mi fa sperare certo, ma c'è tempo, per crescere, c'è ancora un bel limite, ancora un bel margine, Tu sai come in una grande competizione internazionale di qualunque tipo, di qualunque sport, ci sono dei margini di crescita che devono essere raggiunti nel corso della competizione. Allora, abbiamo Giancarlo Marocchi da Sky che saluto. Ciao Giancarlo. Ciao a tutti. Ciao. Io invece posso dire la mia, cioè che mi vedo già semifinale invece lì. Cioè, tutto. Ti vedi già in semifinale. Sto pessimismo di Pier. Adesso sai che le cose si mettono apposta da sole delle volte. Cioè, sai, il timore era che non fosse una squadra la nostra, solo talento, non una squadra. Sì, hai ragione. Sai, sfortunatamente si fa male da Tome, ecco che riduciamo quelli che devono essere i protagonisti e riusciamo anche a fare una squadra, secondo me. Beh, ma sai, spesso succede che riesci a trovare fortuna, il quadro, esatto. Riesci a trovare la quadratura per sottrazione, che sembra un paradosso, ma non lo è. No, ma non è un paradosso, succede tantissimo. Io, ecco, del calcio ti farei una casistica infinita, del basket ci vado con cautela perché ne so meno di mezza, però mi dispiace per il capitano, ma ho quell'impressione che possa essere successo questo. Poi sì, la butto lì. Senti, ma in questo weekend del calcio per mestiere che cosa sceglieresti? No, perché a me affascina tantissimo questo giro del mondo sportivo. Oggi alle 17 giocano Il tennis, mica male. La Vinci. Il tennis mica male. Perché dalle tue parti o comunque lì vicino Misano con 100.000 per Valentino Rossi è male? No, oppure la Vuelta con Aru che può vincere neanche. No, beh, diciamo che moto e auto, sai che io sono romagnolo per metà, esatto. O tutto intero, auto e moto vengono prima di qualsiasi cosa, quindi queste non fanno parte di una classifica di sport. Horse category, esatto. E quindi, accidenti, è vero, c'è anche Aru che noi diamo per scontato che ce la faccia, solo 3 secondi, insomma. Però è vero, c'è un sacco di roba. Paura. Quindi, a parte Fiorentina-Genoa commentata da me, non so, scegliete quello che vi pare. Tutto quanto, non c'è problema. Tanto, cioè, ormai ci sono i meccanismi per rivedere tutto, no? Sì, è vero. Quindi. Senti, ma parliamo di calcio. A me, a Pardo peraltro, sembra nel campionato di calcio la prima giornata delle risposte. La Roma Frosinone, Cicalo Formica con Garcia che dice: vabbè, Totti è come il Papa, adesso lo faccio giocare. La Juventus col Chievo e serve paradossalmente la prima grande partita della stagione, non solo una vittoria ma una partita che convinca, poi posso andare avanti e andrò avanti. Cosa ne pensi? Vero, avete ragione, perché ci fidiamo, insomma, di Allegri e lo seguiamo dicendo vabbè, che comincia il campionato della Juve adesso. Però con le prime due giornate che non si possono cancellare e i tifosi della Roma assolutamente non le vogliono cancellare, quelle fanno non solo classifica ma anche entusiasmo, e si arriva paradossalmente alla terza che la Juve già deve dare un segnale forte. Bravo, cioè, non basta una vittoria esatto. serve un segnale forte, perché poi a parte che gli capita una squadra che al di là dei 6 punti è tutto fisico, rognosa, complicata, addirittura quest'anno fa anche il gol facilmente, quindi non so se è un caso o darà anche continuità a questa, ma il Chievo è quello, quindi è bello e siamo sì. Tutti contenti, insomma, che poi anche il Napoli siamo lì che lo aspettiamo, addirittura c'è anche la bella storiella di Sarri che torna a Empoli, sì, ma anche questa giornata diventa veramente bella. Ma sai, Pier, Empoli-Napoli, altra partita monitorata, no? Sarri torna a casa, torna nella sua Empoli. Ora, non è stata una storia d'amore clamorosa, è stata semplicemente una grande impresa, una grande squadra quella costruita da Sarri. Bene, torna a casa, mille emozioni, però Napoli con tutta la pressione addosso e con le spalle al muro. Sì, non è semplice, anche perché le squadre di Sarri storicamente hanno partenze lente e il calendario sembrava quest'anno dare una mano. Solo che queste prime due partite, questi vantaggi presunti del calendario sono dimostrati assolutamente assenti, quindi mai come quest'anno, insomma, è una terza giornata interessante, perché le prime due ci hanno detto delle cose abbastanza trampalate rispetto alle previsioni, quindi soprattutto chi deve dare risposte è chiamato, sono d'accordissimo, la Juve tutte, anche perché non dimentichiamoci che poi c'è Manchester che invece è partita benissimo in campionato, quindi insomma bisogna arrivare a Manchester con una condizione anche psicologica discreta, e questa condizione te la dà una vittoria convincente contro il Chievo. Sarri è in un ambiente, quello di Napoli, ovviamente stra innamorato, molto caldo, non dico che sia già in bilico, però i pugni ci sono in città, il tam-tam delle radio lo sento, quindi certo. Sono situazioni complicate, no? Sono situazioni complicate. E poi ci sono altre partite comunque interessanti, c'è questo Frosinone-Roma che anche solo a dirlo, no? è il primo derby del Frosinone in Serie A, quindi sì. È comunque una partita speciale nei contenuti e nel folklore, poi magari tecnicamente no, ma sarà poi una partita banale. Lazio-Udinese con la, ma poi ci sono poi anche derby, eventi di contestazione, c'è Lazio-Udinese con la Lazio che è già sotto il fuoco incrociato, e poi ovviamente c'è il derby. Sul derby, io a Giancarlo Marocchi, per chiudere, volevo chiedere una cosa particolare. A partire da... vi faccio sentire un audio. Allora, ieri presentazione del Milan, kermesse del Milan, 3.000 tifosi, atmosfera al solito di festa, eccetera. L'unico al centro del mirino, o uno dei pochi al centro del mirino, Adriano Galliani, che ha parlato di quell'altro al centro del mirino, che si chiama Mario Balotelli. Galliani. Il comportamento di Balotelli è straordinario, voglio dire veramente super, super, super. Io credo che Mario abbia capito che deve cambiare, ha tutto, tecnicamente non gli manca niente, dipende solo da lui se vuole ritornare a essere un grande campione, perché non ha nulla che glielo impedisca. Ora, che Balotelli sia al centro del mirino dai tifosi rossoneri lo capiamo perfettamente, ma perché adesso il principale indiziato, principale accusato dai tifosi rossoneri è Adriano Gagliardi? Giancarlo Marocchi, mi illumini tu? Ma illuminarti faccio fatica, ecco. Sicuramente si è perso tempo, che non si è mai deciso negli ultimi 5-6 anni di costruire una squadra, ma di vincere con scorciatoie. La colpa migliore di Gagliardi? È sempre stato Ibra. Ma io credo di sì, perché le squadre le faceva lui. Cioè io prendo lui, perché poi dopo altri discorsi che escono dal campo io faccio fatica a seguirli, perché non avendo le conoscenze, non avendo le informazioni, uno è meglio che stia zitto. Sì, e quindi ci sono solo supposizioni che conosciamo benissimo. Esatto, quello che vedevo in campo non mi è mai piaciuto. Però posso dire una cosa su queste dichiarazioni? Cioè mi fa ridere. Non possiamo continuare a mettere al centro dell'attenzione Balotelli, poi volendolo per forza farlo spacciare per bravo perché arriva puntuale all'allenamento. Cioè, adesso c'è una situazione da normalizzare, ovvero se Balotelli arriva in orario, ma come tutti gli altri, non vogliamo sottolineare, perché è come mettere tre righe rosse sempre a tutto quello che è stato di lui, che invece bisogna aiutarlo a dimenticare e normalizzare. Tanto è solo da normalizzare la situazione Balotelli, ecco. Io mi permetto di dire questo, e poi il Milan speriamo che si spicci a fare dei punti, perché io l'avevo messa tra le favorite. Grazie Giancarlo, buon lavoro. Ciao a tutti, ciao, ci sentiamo Pier, presto, ciao, è sempre un piacere. Ciao, grazie, ciao Giancarlo Marocchi. Ha ragione Marocchi, Pier. Cioè, sì, dire Balotelli è puntuale agli allenamenti, come dire, noi siamo puntuali al lavoro o... I ragazzi sono puntuali a scuola, cioè mi sembra la cosa di Balotelli, lo straordinario fa un po' ridere, devo dire la verità. Però nasce anche dal fatto che tutto ciò che riguarda Balotelli, cioè, ha ragione Marocchi, però diciamo che l'ordinarietà di Balotelli per molti sembra straordinario, no? Cioè, e quindi Gagliani, se noi diciamo qualche punto esclamativo, francamente. Sì, però queste critiche a Gagliani tu le condividi? Cioè, secondo te ha ragione anche su questo, Marocchi? No, Gagliani, guarda, io te lo dico con molta più chiarezza: arrivano da una parte della curva del Milan, che ha fatto una scelta di campo molto precisa, che è molto, diciamo, molto più in sintonia col nuovo corso di Barbara. Cioè, non è che bisogna essere degli appassionati di dietrologia per arrivare a dire questo. Mi sembra che i rapporti fra Gagliani e Barbara Berlusconi si siano, a quelli sì, tranquillamente normalizzati, lavorano insieme. Però è chiaro che quando c'è stato lo scorso anno quel po' di trambusto, non è che sia stata proprio semplicissima come situazione da gestire, e quindi la tifoseria si è divisa. Mi sembra che la curva sud, insomma, ha fatto continuamente. Sì, la curva sud ha già fatto da tempo le sue scelte di campo, soltanto che dire è Gagliani il responsabile unico della mancata costruzione di Milan da trionfi, e poi ovviamente il sottolineare così sotto traccia, ma con Marocchi se ne faceva riferimento, Gagliani è amico di Raiola, di questo e quell'altro procuratore, quindi costruisce il Milan secondo queste logiche. A me sembra eccessivo, perché Gagliani ha sempre fatto il mercato con i soldi che la proprietà gli metteva a disposizione. 800240024 numero verde, vi aspettiamo subito dopo la borsa. Ecco, a proposito di quello che hai detto prima in radio, tu hai detto che in Italia la radio poi si cazzeggia, eh? No, sì. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Convocati. Allora, la Lazio, tra le altre, così come la Fiorentina, così come il Milan e Gagliani, sono sotto accusa per la campagna acquisti. Radio 24 non può certo essere messa sotto accusa per la campagna acquisti, perché da domenica 14:30 parte un nuovo programma con un grande fuoriclasse. Pino Insegno, buongiorno. Ma che bella presentazione, perché non mi chiami tutte le mattine a casa e mi dici una nuova mattinata comincia insieme a voi, signori popolatori della terra, con un uomo che incontrerete volentieri, Pino Insegno. Che bello, grazie. Che bello anche che bello a parametro zero, sono arrivato all'ultimo secondo, e per cui ho chiesto molto di più come mensile, ma a parametro zero, perché mi ha liberato il Barcellona. Non farmi dire come Balotelli. Tu hai parlato di Lazio all'inizio, adesso parliamo del nuovo. No, è Pardo che parla sempre di Lazio. Mica io. Sei libera di Radio 24, questo è un dato oggi. Senti, ma adesso parliamo di calcio, però io volevo capire una cosa. Tu fai un programma sulla voce, quindi proprio c'è il calcio sui maccheroni alla radio che parla della RAI, una roba... Sì, infatti era da tempo che pensavo una cosa del genere. Nel senso, la radio è voce, è evocativa. Tu dici, siamo a Londra, è il 1824, sta piovendo. Se senti la pioggia, oggi ci credono. Cioè, la cosa bella è che la radio è come un bel libro. Tu gli dai, è immaginifica, gli dai... le proporzioni, dai colori, dai le posizioni, dalle facce a quelle voci, anche quando non le conosci. A voi ve l'hanno date le facce perché avete messo la fotografia, è da lì che c'è stata una fuga di persone che pensavano. Però la cosa divertente del programma è che ci sono i doppiatori, ci sono sociolinguisti, ci sono grandissimi attori, ma non è un parlarsi addosso proprio a proposito di voce, è proprio anche uno studio a voce, ci sarà dei corsi di public speaking, ci sarà lo studio dei dialetti, ci sarà attori che leggeranno le storie dei radioascoltatori, che diventeranno come un film, perché lette con quel modo sarà fantastico. Cioè, sarà un'analisi bellissima della voce, che è l'elemento tridimensionale di ognuno di noi. La gente dacci qualche consiglio, dacci qualche consiglio, la voce l'intenta, com'è? Fammi un'altra domanda di storia. Ti faccio una domanda di storia. No, tu sei tra quelli... No, sto scherzando. No, a parte il fatto che vorrei sottolineare il titolo del programma Voice Anatomy, che non so di chi sia la paternità, ma è meraviglioso. È bello, a prescindere, non voglio neanche saperlo. Filippo Cellini insieme ad Alessio Navarro, eccetera, è un gruppo di lavoro fighissimo con il quale io collaboro tanti anni, perché ho anche una società di comunicazione, e con Filippo abbiamo anche insegnato alla LUIS, qualcuno ha fatto addirittura quando sente il mio nome. Io ho sempre dovuto combattere, che poi a Roma si traduce in mezzo, perché tu pensi, all'inizio ho doppiato sotto falso nome quando doppiavo dei protagonisti di film drammatici, perché per tanti, no, l'attore Pino Insegno è un comico, non può fare i film drammatici, e allora ho vinto dei provini come Mario Persichetti. E è stato quasi sempre così, anche quando vinsi il provino sul Signore degli Anelli, la società tolkieniana, che io adoro e siamo molto amici ovviamente adesso, mi contrastò non poco, perché dice, Pino Insegno non può essere degli uomini. Ho fatto, no, c'avete ragione, Pino Insegno assolutamente non potrà. Ma c'è Mario Persichetti, c'è Mario Persichetti, esatto, degli uomini. Però Pino Insegno doppiatore magari sì, visto che ho vinto il provino e mi ha scelto Viggo Mortensen e Peter Jackson, per cui è sempre stato un combattimento. Per cui anche quando ho detto che con Filippo avevamo dei corsi di comunicazione, di creatività attraverso i nuovi media, alla LUIS qualcuno ha detto, ammazza, siamo proprio caduti in basso, no? Per dire, certo. Ovviamente è stata ironica, perché gli abbiamo dimostrato che si vince anche così. E questo, dimmi. No, non dico, c'è un calciatore con una bella voce, un calciatore, uno sportivo, no. Niente, neanche uno. Non è tanto la bella voce, sono le belle intenzioni che fanno la bella voce, non è la voce che ti parla bassa, rotonda, che quella da biocchi dopo un attimo, è il movimento della voce. La voce va dalla testa fino ai piedi, e questo è uno strumento che dovrebbero insegnare anche nelle scuole, perché poi mille persone sono coi noduli sulle corde vocali, chi perde la voce dopo il primo strillo. È come il fisico, tu non puoi scattare a freddo perché te viano, te si strappa il muscolo, te stanno le contratture, te si incricca la schiena. Ci stanno dei movimenti che ti abitueranno a elasticizzare i tendini, i legamenti, i muscoli, eccetera, eccetera. E così è con la voce. Le due corde vocali, che sono 3 mm l'uno, sono l'elemento di comunicazione primaria di una persona. È vero che una donna guardi qualcos'altro e poi senti la voce, ma se dopo che hai visto qualcos'altro che pure è buono, quella te parla e fa, niente, dormi da me stasera? Tu che gli dici? Grazie, no, guarda, c'ho un albergo. Vediamo, ho il gatto sul fuoco, Pino. C'ho il gatto sul fuoco. Dai, fa un momento a essere benessere, molto cuore denari, ma io sono un pochino giù di voce, domani sera una telecronaca, che posso fare? Asughe? No, se sei giù di voce devi capire dove impostarla, la devi mettere in maschera, cioè in alto, fai passare le corde vocali, spingere col diaframma e parlare in un'altra maniera, perché se abbassi le corde vocali ti toccano e sfiatano. Però insomma, discorso un po' più lungo, però e se no c'è sta qualche aerosol scortinata. Non vorrei bruciare però tutti gli argomenti, non vorrei bruciare tutti gli argomenti di Voice Anatomy, che domenica va in onda per la prima volta alle 14.30. E con Pinisegno interagiremo. Sì, giusto. Non dite faremo una interazione con questo tutti i convocati weekend, e questo flusso che per me è il senso della radio, faremo anche questo flusso con Voice Anatomy. Adesso voglio farti per chiudere una domanda di storia, ok? Dimmi. Pino, però tu sei una bella timbrata, dimmi. Tu sei uno di quelli critici nei confronti di Lotito e della Lazio oppure sei una sei dalla parte della soluzione? Pensi che la Lazio sia comunque, come penso io, che sia una buona squadra? Guarda, io sono stato sempre l'unico che quando prende una direzione la manifesta tranquillamente in piazza, nel senso che ogni mia idea, essere laziale a Roma è essere come neri durante Via col vento in Alabama, e io sono stato sempre l'unico a urlarlo tranquillamente, a essere in Curva Nord, a portare avanti i problemi, a essere sul palco se c'era da difendere, da presentare, anche quando si perde, soprattutto quando si perde, perché sul carro dei vincitori è facile. Io dico soltanto una cosa: c'è una squadra da amare, un colore da amare, una bandiera da amare. Io continuerei ad amarla, criticando, perché è giusto, perché il tifoso ha tutto il diritto di criticare, assolutamente, perché siamo sempre arrivati a un centimetro dalla soluzione di qualcosa e all'improvviso la porta si è schiantata addosso a questo sogno. Sì. Allora è quello che il tifoso vuole, perché arrivare a un centimetro da una donna e poi fregarsene delle donne? Cioè, nel senso, ci siamo, ci stai quasi, miseria, che costa fare un piccolo passo in più? Perché poi ti tocca rincorrere tutto quanto e ti trovi nella crisi più estrema. Allora chi c'è sul mercato non è sempre riesce a prendere Candreva all'ultimo secondo e lo fai diventare leader di una squadra. Io credo che quest'anno si pensava, come al solito, che ci fosse un proseguimento continuo rispetto a quando è finita, non considerando il fatto che c'è una preparazione, c'è una disorganizzazione momentanea, bisogna rientrare nei ranghi, per cui anche i più forti si sono trovati in difficoltà. Poi perdi all'improvviso sia Djordjevic che Klose, si sente Biglia, così, che Keita ancora un bambino. Ecco lì che ti trovi nelle condizioni, quello non è più capitano, vuole essere capitano, le prime chiacchiere, ecco, si diventa Roma. Questo è come il problema di Garcia l'altro anno a Roma, è diventato romanista, e quello non è stata più la squadra a specchiarsi lui, ma lui nella squadra, ed è diventato... Ho capito, sei critico adesso. Dai, ho capito. No, critico. Sono critico quando sei serve, critico. Assolutamente, io dico la Lazio potrebbe fare in questo momento sicuramente sei critico. Qualcosina in più, è una squadra che sta e viva da quel punto di vista, c'è un allenatore straordinario, perché Stefano Pioli è un uomo straordinario. E quando c'è un uomo straordinario in uno spogliatoio è come un direttore di una radio, di un giornale o di un'azienda, è forte anche a pioggia. Dalla direzione. Gente sotto. Questo capolavoro l'anno scorso, poi di questo capolavoro chiaramente rimane poco perché dopo le Putin, però insomma il terzo posto della Lazio l'anno scorso, io non so in quanti potevano immaginare, anche solo in Italia. Per la verità, io vedo che Van Persie se ne va per 5 milioni e se ne va in Turchia. Bisogna vedere se ci hanno provato a prenderlo, bisogna vedere quanto voleva l'anno. Bisogna vedere se questo fair play finanziario funziona per la Lazio, perché sta perfetta, però gli altri non lo seguono così tanto, va, perché non seguirlo pure noi. Non lo so come fa la Roma, perché sono i dirimpettai a comprare a più non posso quando è una squadra che starà sempre al limite con le banche, cioè, ma non voglio intervenire da quel punto di vista, anzi, visto che c'è una squadra che sta davanti casa, che fa tanto, devi fare altrettanto, come ha fatto la Roma specchiandosi nella Lazio di Cragnotti. Per cui, sai, poi qui a Roma si vive di microcampionati, forse è un limite, forse è un limite, ma così. Si è autofinanziata, cioè la Roma ha fatto una cosa che Lotito non ha fatto e che in qualche modo secondo me va riconosciuta a Lotito, cioè Lotito non ha venduto i propri migliori giocatori, insomma, non compra, non vende, ha venduto le offerte per Felipe Anderson e per Candreva. La Roma, cioè, quest'anno, il giorno in cui si è saputo che Bertolacci andava via, al di là delle quotazioni, Romagnoli La Roma ha fatto degli acquisti e ha incassato via, no? E ha speso, ma come aveva incassato e speso in maniera perfetta nelle campagne acquisti precedenti, salvo quella di gennaio. Sabatini credo che gli si riconosca questo. Quello è capace di vendermi a me e comprarmi a 1.000 lire e rivendermi a 100 miliardi, cioè, poi prova a vendere oggi i Turbine e ne riparliamo, perché i suoi errori li ha fatti anche lui. Pino, ti saluto, ci sentiamo domenica 14.30 Radio 24 Voice Anatomy. Grazie. Pino Insegno che farà che interverrà, ci proviamo a tenere compagnia. C'è anche la gente che c'è un piccolo concorso che lasceranno le loro voci in radio, in segreteria, e il migliore durante l'anno di queste frasi famose dei film riusciremo forse a fargli fare un piccolo busio in un film molto importante. Ma posso, un farlo gioco, posso farlo anch'io? Non si può all'interno, neanche se faccio falsetto. Parla in falsetto. No, potete fare il pezzo di Harry di Presento Selli, il godimento al ristorante. Te parlo insieme, a me parlo insieme, giuro che lo facciamo. Grazie. Signori, Pino, vi ringrazio. A domenica, grazie per il segno. Ciao. Traffico. Andrà bene così. Torniamo subito. Tutti convocati. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo. Fluentis.com. Vi presenta. Tutti convocati. Siamo tra virgolette la Serbia non per la qualità che anche noi abbiamo nei nostri giocatori, ma perché sappiamo che noi non possiamo giocare 5 partite di questo ritmo, perché non c'è l'abitudine, non c'è neanche, l'abbiamo visto poi giocando nel secondo tempo quando abbiamo dovuto fare molte rotazioni, la cattiveria di stare comunque su ogni possesso, perché tu puoi perdere di 20 nello stesso, con lo stesso punteggio, ma essere un po' più cattivo, un po' più duro. Questo ormai l'avrete riconosciuto, perché è uno dei grandi protagonisti di questi meravigliosi giorni di sport, GT della Nazionale Italiana, Simone Pianigiani. Ieri abbiamo perso 101-82 contro la Serbia di Saša Đorđević. Terzi nel girone, giocheremo domenica alle 18.30 agli ottavi di finale contro Israele. Sempre con noi Pierluigi Pardo, ed è un piacere parlare con Marco Motodente, che è un nostro vecchio amico. Ciao Marco, come stai? Ciao Carlo, ciao Pierluigi, bene, ciao. Voi come state? Bene. Noi benissimo. Senti. Ma Reggio Calabria è un grande colpo di mercato, possiamo dirlo, state facendo una squadra di altissimo livello, di grande tradizione, grandi nomi. La tradizione e la storia ce n'è tanta. Per adesso abbiamo fatto una buona squadra, abbiamo qualche acciacco tra cui il sottoscritto, quindi non riusciamo a partire. La sciatica, che c'hai? La sciatica, sì, bravo. La sciatica, sì. C'è un piccolo problema muscolare, dottore, che spero di risolvere brevemente. Però la squadra c'è, soprattutto Reggio Calabria ha voglia di riappropriarsi della propria squadra, si sente questo in città. Sì, possiamo annunciare ufficialmente il ritorno di Manu Ginobili, no? Sì, no, lui ha già firmato, ma poi c'è uno giovane che si chiama Ugo Sconocchini, anche quello l'hanno preso. Sì. E Rifatti, anche un ragazzo giovane. Rifatti. E Marc Campanaro, no? Che tu non ti ricordi. Marc Campanaro, invece qua Marco Mordente. No, invece qui ho studiato e Marc Campanaro. Hai studiato? Ho scoperto chi è. Sì. Storico. Guarda che ti faccio l'esame, viola, guarda che vado a Lagana Bianchi. Cioè Bianchi. Attento, certo. Massimo Bianchi, attento, ti faccio l'esame. Bianchi. No, senti, parliamo, abbiamo, ti dico senti, anche l'allenatore. Benvenuti. Vai. Bravi, per i voti come sempre, Marco Mordente. Senti, ma cosa che ti ha colpito di Reggio Calabria fino adesso? Hai cominciato a mangiare l'anduia, ma soprattutto, no, a parte tutto, la società mi sembra serissima, sta facendo anche dei progetti commerciali molto importanti, c'è una sede a Milano, insomma è un progetto ambizioso. L'obiettivo qual è a proposito? L'obiettivo è quest'anno di fare molto bene e poi puntare in breve tempo a tornare su, perché comunque ci sono delle persone che hanno messo la faccia, stanno facendo le cose per bene, che sono legate alla città da tanto tempo e addirittura anche da vecchie generazioni, perché comunque se parliamo di Monastero è un vecchio, il suo babbo era un vecchio dirigente importante, una di quelle persone importanti della Viola Reggio Calabria, tra cui il giudice Viola o altri, e insieme al nuovo come Rusba Branca stanno cercando di riaccendere questa piazza, che è importante non solo per Reggio, non solo per la Calabria, ma credo come storica, Marco, è una piazza storica, è una piazza storica del basket italiano. Abbiamo un minuto per fare un commento con Marco Mordente sulla nazionale. Allora, ieri secondo me non è stata così indicativa, che ne dicano, ne avete presi 20, ho ricevuto qualche messaggio prima. Allora, ieri Pianigiani ha giustamente secondo me guidato con un occhio sulla lancetta delle energie, sulla lancetta della benzina. Secondo te mi sbaglio o do ragione? No, è giusto perché c'è una partita importante, poi arriviamo da un europeo, quello di 2 anni fa, dove abbiamo consumato tante energie, forse questa cosa abbiamo anche sprecata. Quindi è giusto, e poi è giusto che ci siano dei giocatori che debbano fare esperienza a questo livello, e quindi mi riferisco che se lo meritano, e mi riferisco ad esempio a Pollunara, a Della Valle, che sono arrivati lì, devono giocare, devono imparare anche a giocare queste partite come quella di ieri. Che poi magari vengono buoni quando nel prosieguo del torneo. Marco, grazie. Grazie a voi. Ci sentiamo presto. Ciao. Saluto anche Pierluigi Pardo alla fine di questa prima ora. Ciao Pierino, sentiamo domenica. Ciao Pierluigi Pardo. Adesso ci fermiamo per il giornale radio, ma poi torniamo. Abbiamo un'altra mezz'ora insieme per parlare di Moto Mondiale. Sto aspettando i risultati delle seconde prove del venerdì. Per parlare di ciclismo, per parlare di tennis e per parlare di tutto quello che volete. 800 24 00 24. Buona giornata. Tutti convocati. Il segnale orario vi è offerto da Gran Moravia e Burro delle Alpi di Brazzale. Fidati di chi conosci da 200 anni. Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia. Sono Filippo Astone, vi aspetto ogni sabato alle 14 e ogni domenica alle 13 sulle frequenze di Radio 24. Per osservazioni, richieste e curiosità, la nostra mail è fabbrica@radio24.it. Tutti convocati. Scuso pubblicamente con gli ascoltatori che oggi sono stati un po' trascurati. Però è così. 800 24 00 24, numero verde. Subito a loro Alberto da Monza e Angelo dalla provincia di Bergamo. Buongiorno Alberto. Buongiorno, ciao a tutti. Cosa, buon pomeriggio. Cosa sceglierà in questo meraviglioso weekend di sport? Ma assolutamente il derby di Milano, dal momento che sono un tifoso calciofilo sfegatato, sono molto l'italiano medio da quel punto di vista, quindi anche se ultimamente non sto disegnando affatto gli europei di basket, sicuramente anche Italia-Israele, diciamo terza piazza al ciclismo, quello veramente. Io non so se lei andrà allo stadio, sarà tra i tanti che andranno allo stadio in questo derby, che insomma dopo molti anni torna ad essere qualcosa di non così deprimente vista la classifica. È terza giornata, è fatale che sia così, però era tanto tempo che non c'era questa attesa sul derby di Milano, attesa di pubblico, attesa di opinione pubblica. D'altra parte, Alberto, se non andrà allo stadio potrà vedere tutte e due, perché Italia-Israele alle 18.30, scanalando 20.45 derby di Milano, siamo perfetti, siamo in orario. Ma infatti allo stadio privilegio nettamente il divano, visti i tempi, insomma, io e sono un grande... Riusciamo a vederle tutte e due, sì. Però le vedrò tutte e due, io sono un po' di quelli che sono in rotta con la società Milan, quindi insomma è una forma di protesta pacifica. Questo mi interessa, con quale parte della società Milan? Assolutamente, per la prima volta in vita mia sono d'accordo con la tifoseria organizzata, quindi con la curva, quindi pro Barbara e contro Adriano, se si può dire così. Qual è la principale colpa di Galliani? Penso che quello che si dica in giro, come dicevate voi, non possa essere verificato. Sono rumors dei quali io mi fido poco, tuttavia penso che non abbia fatto il massimo con i soldi che almeno quest'anno aveva a disposizione. Quindi 86 milioni, se così è vero, che sono stati spesi sul mercato, probabilmente si poteva fare qualcosina di più. Credo che la squadra non sia competitiva a livello di gioco, a livello tattico, insomma. Detto poi, questo, è anche vero che ci sono andati di mezzo i vari Fedor, i vari Zaghi, quindi noto anche un'abilità del buon Adriano nel, diciamo, scansare le critiche negli ultimi anni. Quindi assolutamente pro Barbara, se non altro per una questione di novità, di anagrafe, sì, insomma. Sì, poi possiamo fare anche un discorso sullo stadio, sul portello, eccetera, eccetera, ma qui diventa lunga. Parliamo di derby. Derby bello, frizzante, come dicevi tu poco fa, sicuramente più interessante secondo me di quello di quelli degli ultimi anni, se non altro perché si proteggiano due allenatori che secondo me un'idea di gioco ce l'hanno, a differenza, sì, parlo per esperienza di Inzaghi, che effettivamente qualche dubbio sulla preparazione ce l'ha lasciato, però penso che saranno due squadre che si proteggiano a viso aperto. Le individualità ce l'hanno, secondo me devono ancora lavorare entrambe un po' sul gioco, però secondo me non finirà 0-0. Ma neanche secondo me finirà 0-0. Il risultato più probabile è comunque un pareggio, vista la condizione delle due squadre, la situazione delle due squadre. Poi però il derby è bello perché è vario, come sappiamo perfettamente, dico una banalità. Angelo, provincia di... Grazie Alberto. Angelo, provincia di Bergamo. Dica. Grazie, buona giornata. Lei cosa sceglie nel weekend? Vado a Misano. Come? Vado a vedere le corse in moto. Va a Misano? Fantastico. Sarà, sì, sarà uno dei 100.000. No, perché io sono tifoso dell'Inter. Però il, sì, calcio mi ha stancato, no? Con tutte queste ballottonate che parlano i giornali. Io sono anti Balotelli, però lo sto difendendo in questo momento. Io ho telefonato per quello. Cioè, sì, tutte le cose che fa Balotelli, i giornali ne scrivono per ingigantirne le cose e venderne più giornali. Ma chi non va con una macchina del genere come Balotelli a 90 all'ora? È una cosa, è un anche quei vigili lì che l'hanno fermato devono avere la testa di cavolo, Beh, insomma, abbia pazienza, tagliato, andava un po' più di... Andava un po' più di 90 all'ora, dicono 105. Il limite era 50, se ci vado io o ci va lei, ci fermano, ci danno la multa, ci ritirano la patente, fanno quello che devono fare. Insomma, direi che quando siamo sulle strade siamo tutti privati cittadini e utilizziamo la cosa pubblica, direi che le regole sono uguali per tutti. Su questo non ci piove. Poi, se questo succede a me o a lei, non finiamo sui giornali. Balotelli finisce sui giornali, viene fuori un polverone. Quindi mi sembra che queste siano le regole, abbastanza le regole del gioco, no, Angelo? Sì, sì, ma però il discorso è che io ho visto casi di queste che hanno superato determinate velocità, però hanno pagato le contravvenzioni e finito il tutto. Beh, cioè, finito invece il tutto, è stato Balotelli, certo, invece l'ha stangato, e mi dispiace. Ma no, non è che l'ha stangato, hanno applicato le norme e le regole, solo che per i personaggi pubblici ci sono dei limiti anche alla privacy che sono più ampi rispetto a quelli dei normali cittadini. Ma non voglio fare nessuna lezione di diritto maccheronico, vorrei invece, visto che lei va a Misano, dirvi che la classifica della seconda tornata delle prove del venerdì vede davanti a tutti Jorge Lorenzo. Dopo che la mattina Marquez era stato il più veloce, nel pomeriggio secondo tempo per Marquez, terzo per Pedrosa, quarto Dovizioso, quinto Rossi che nella mattina era sesto. Vi faccio sentire Valentino Rossi. È durissima quest'anno con Lorenzo, cercare di batterlo, di arrivare, di fare più punti di lui nelle 18 gare è una impresa molto faticosa, perché lui è in grandissima forma e sta andando forte. E allora, io qui sono il favorito perché l'anno scorso ha vinto e quindi per quello ci sta. Però da quando corriamo qua abbiamo corso 7 volte a Misano, se non sbaglio, e abbiamo vinto 3 volte io, 3 volte Lorenzo e un'altra Stoner, penso, all'inizio. E quindi diciamo che siamo 50-50, perché Jorge è molto molto veloce. E già con noi il mio amico Roberto Ungaro, direttore di Rider. Ciao Roby. Ciao Carlo, un saluto a tutti. Senti, mi viene voglia di dire, anche questa è una frase fatta antica, comunque vada sarà un successo. Misano, allora, 100.000, Valentino primo in classifica. Io volevo dire all'amico di Bergamo, ascoltato prima, che venga con qualcosa che leghi bene col giallo, perché Misano è gialla e quindi se non è un valentiniano può ovviamente tifare chi vuole, il bello di questo sport, ma un colore che leghi bene col giallo, perché sì, credimi, Misano è veramente gialla, fila gli accrediti, sì, mai vista, parcheggi già pieni il venerdì, si respira un'aria bellissima, asfalto nuovo, è già stato battuto il record della pista, Valentino è quinto a 6 decimi da Jorge. È vero che Valentino è il favorito perché ha vinto l'anno scorso, ma sono pari, 3-3, vittoria a testa, c'è una grande battaglia già psicologica, ancora prima che in pista. ieri prima di entrare in conferenza Valentino addirittura ha invitato alla sua pista Jorge, e Jorge gli ha detto sì, piacerebbe, però poi ci ha pensato un attimo, ha detto ma sai cosa, dopo il campionato, finiamo il campionato poi. E Valentino sorridendo ha detto hai pretattica questo per dirti che sono degli splendidi attori, c'è una tensione nell'aria bellissima, comunque sempre sportiva, e secondo me sarà uno spettacolo davvero per tutti, perché non è vero che Vale è il favorito, tanta pressione psicologica perché è davanti, ma c'è il suo pubblico e quindi sarà dura. Però vederlo il quinto già il venerdì è un buon segno, secondo me. Sì. Normalmente non è il suo giorno, lo sappiamo benissimo. Normalmente il venerdì non è il suo giorno, il sabato non è il suo giorno, e questo è il suo limite in questa stagione. Bravissimo anche Petrucci, perché ha finito settimo, addirittura ancora davanti stamattina. Pirro, vorrei dire che qua gira bendato perché è la sua pista, stamattina addirittura terzo, oggi invece nono. Sì, poi magari domani sarà ancora più su in alto classifica, ma è normale perché quelli veri poi migliorano e gli outsider fanno fatica a tenere questo passo. Però bravo, Iannone invece l'abbiamo visto in ghiaia, purtroppo dei problemi per lui, non è in forma smagliante, Dovizioso quarto, e quello che dico è vale la pena esserci o gustarsi davanti al televisore domani, perché è un appuntamento imperdibile. Sì, poi sarà un weekend, lo ripetiamo da due giorni, sarà un weekend da non circoletto rosso, ma di più, doppio, triplo circoletto rosso per tutto lo sport italiano. Sì, ed è inutile tornare ad elencarne i motivi, no? Tra Misano, New York, Lille dove gioca la nazionale di basket, la giornata di campionato di calcio che quasi finisce sullo sfondo, Madrid dove si conclude la Vuelta, insomma ce n'è per tutti. Roberto, potrebbe essere Marquez a questo punto non più il protagonista ma l'arbitro, il Rocky di questo mondiale? Sì, è l'ago della bilancia per la battaglia, per il derby finale in casa tra Jorge e Valentino, non tanto per i risultati, ma perché sappiamo tutti quanto vale Marquez, ma per quello che lui fa in pista. Siccome è imprevedibile la sua guida, questo può avere delle conseguenze, e quindi se si mette in mezzo lui non è così regolare nelle staccate, non è così regolare nelle aperture, lui passa a sinistra o destra, per lui la traiettoria una vale l'altra, mentre gli altri due sono dei giotto, sono dei compassi. Ecco, questo potrebbe un attimo sparigliare le carte in campo, in tavola. Però a questo punto occhi puntati sul blu, e bisogna vedere fra quei due lì come se la giocano. È una questione psicologica sia prima che dopo, perché se Lorenzo qua fa bottino pieno per Valentino, insomma, al di là dei punti che perderebbe in questo caso, è l'affermazione, quindi psicologicamente potrebbe essere un gradino in più da percorrere in salita. Ma è incredibile, perché adesso puntare, scommettere su uno dei due è veramente difficile. Robby, chiudiamo sull'emotività di nuovo. È inutile dire che firmeremmo con il sangue il risultato di Silverstone, firmeremo con il sangue il podio italiano. La sensazione è che al di là del duello principale, del duello chiave tra Valentino e Lorenzo, la sensazione è che la Ducati ci creda. Ieri abbiamo parlato con Ciabatti, è rimasto allineato e coperto, però la sensazione è che la Ducati ci creda. Sì, allora Petrucci qui ha ricevuto una moto veramente diversa, e non è poco ma cambia tanto, immaginiamoci per lui cosa voglia dire questo appuntamento. Ma al di là di Petrucci, che è una splendida conferma e lo vogliamo al più presto ancora lì, non grazie all'acqua, non grazie a una gara rocambolesca, ma per le sue prestazioni che ci sono e valgono sul campo, ma Dovi comunque è lì, e vogliamo ritrovare un Iannone in alto in classifica, perché anche lui è un bel punto di domanda, anche lui può sparigliare le carte. La Ducati ci crede e sembra un po' aver ritrovato il bando della matassa. La moto c'è sempre stata, si erano persi, non si capiva bene perché tecnicamente, ma era strano il risultato all'inizio, dovevamo stupirci di quello, non era normale che una moto pronti via e subito al debutto vincente. E Ducati, cioè, questo è importante, è un'altra Italia, quindi rafforza il concetto del tricolore. Secondo me stiamo vivendo un momento che se lo ricorderanno per tante generazioni, e quindi chi lo vivrà da protagonista sarà una persona sfortunata. Grazie Roberto, alla prossima. A te Carlo, un saluto a tutti. Grazie mille Roberto Ungaro. Ciao. Allora, rimaniamo su un altro dei grandissimi eventi di questo weekend. Dicevo prima, Misano, ma c'è anche Madrid, dove arriva la Vuelta di Spagna, dove ieri Aru ha provato ad attaccare, non è riuscito a prendere la, la maglia rossa. Io voglio chiedere a Pieraugusto Stagi se sono diminuite le possibilità di Aru dopo la tappa di ieri oppure rimangono intatte. Ciao Pier. Ciao Carlo, guarda, in realtà rimangono intatte, anche se una tappa in meno fa pensare che va a vantaggio dell'olandese, di Tom Dumoulin. In effetti è così, è una giornata portata via ad Aru, una giornata in meno, l'olandese è stato molto molto bravo, è un osso duro, bisogna essere estremamente competitivi e soprattutto non bisogna farsi prendere dalla fretta. 3 secondi sono veramente un'inezia, ma a questo punto, visto che uno scontro frontale tra due grandi corridori, questi due ragazzi della classe 90, Aru e Dumoulin, bisogna avere pazienza e lavorare oggi, sodo come ieri, magari facendo anche un po' la figura dei polli, ma poi c'è la tappa che deciderà tutto, che è quella di domani. Domani ci saranno 4 colli di prima categoria e ci saranno soprattutto quelle pendenze molto più arcigne e aspre che potrebbero essere sufficienti, uso il condizionale perché purtroppo a questo punto bisogna essere estremamente realisti e riconoscere certo, il valore certo. di questo ragazzo olandese che non sta rubando nulla e che soprattutto sta andando molto forte all'inizio stagione, che potrebbero essere utili e necessarie a Aru per fare quella piccola differenza e portare a casa finalmente questa maglia rossa. Ribadisco, non è facile, però non è impossibile. Fabio ha tutto per potersi riuscire. No, però diciamo che nel complesso, rispetto alla domanda che ti ho fatto prima, le percentuali dopo ieri sono un pelo diminuite, adesso bisogna essere più realisti e aspettare il momento della verità. In questo weekend di momenti della verità ne avremo tantissimi. Il momento giusto, la pendenza giusta. Ecco, e allora dimmi quale secondo te sarà il momento della verità nella tappa di domani. Dove sarà il momento della verità? Domani nella parte nell'ultima, negli ultimi 30 chilometri ci giocheremo questa vuelta. Credo che assolutamente arriveremo proprio a questo scontro finale domani, che quello che è più felice di tutti sicuramente è l'organizzatore della vuelta, perché è riuscito a tenere vivo l'interesse fino all'ultimo giorno, fino alla vigilia appunto della passerella finale di Madrid. Quindi lui è l'uomo più felice della terra. Un po' meno felice è Aru e lo stesso Dumoulin, perché comunque sanno che tutto il lavoro fatto fin qui può essere vanificato domani da un piccolo errore, da un incidente, da un'esitazione. Certo. Speriamo che Fabio sappia cogliere il momento. Splendido che se la vadano a giocare faccia a faccia come in un match di tennis. Pieraugusto Stagi, ce la vediamo domani in quest'ultima tappa, in quest'ultimo esame decisivo. Barbara Rossi da Eurosport, che sta per scendere in campo dietro al microfono ore 17 per commentare le due semifinali italiane degli US Open. Ciao Barbara. Buongiorno a tutti, ci sono. Hai fatto notte, ma su New York è stata pioggia, come d'altra parte era previsto, non si è giocato e dunque Vince e Pennetta giocheranno oggi una dietro l'altra a partire dalle 17. A chi può giovare questo ritardo? A chi può giovare questa giornata in più? Innanzitutto a Flavia. Tra le 4 a Flavia. Sì, perché è molto stanca con Alep, ed è la prima partita proprio delle 17, aveva finito molto stanca nella partita con la Kvitova, tra l'altro poi è scesa in campo per giocare anche il doppio con Errani, perdendo poi con Hingis e Mirza. Quindi insomma qualche ora in più per recuperare, tra l'altro in una partita dove sarà una maratona, dove dovrà essere fresca fisicamente e mentalmente, con un Alep che ti fa giocare tanti punti, tanti scambi, e sicuramente è stato positivo avere qualche ora in più di recupero. Mentre l'altro match rimane chiuso, cioè giocare nella notte, giocare oggi non sposta nulla, insomma, la differenza di orario. riposo, no, di qualche sembra ora. Sembra chiuso, anche se può succedere l'imprevisto, per carità, non si può dire mai niente fino a che non, le ragazze non si danno la mano. Il problema della Vinci è la potenza della Williams, lei con il suo gioco, diciamo così, vintage, con questo back di rovescio, con questo gioco d'attacco, la smorzata, evidenzia sempre molto le lacune tecniche delle sue avversarie. Ad esempio l'ha fatto con la Mladenovic, una ragazza di 10 anni più giovane di lei, e sì, la Vinci ha vinto la partita in questo modo. La Williams è troppo forte in tutti i frangenti, fisico, tecnico. Tra l'altro l'ha appena incontrata a Toronto, Vinci ha giocato una bella partita, ha perso in 2 set, e questa non è mai una notizia positiva, perché la Williams mette a memoria quello che deve fare con la sua avversaria, potrebbe essere anche un risultato, sì, un pochino, sì, più severo, sì, per la Vinci. Sì, sì, sì. Grazie Barbara, buon lavoro. Grazie, buon a voi, lavoro. Seguiteci. A presto. Allora, ricordo il programma: dalle 17 ore italiana a New York le 2 semifinali degli US Open, prima si gioca Pennetta-Alep e a seguire Vinci Williams. Chiudiamo con Edoardo dalla provincia di Lodi, buongiorno. Sì, buongiorno, complimenti. Dica. Lascio, professore, anche se sono doverosi. Solo un flash, sì. Io ho notato che dopo i casini successi in Brasile con l'Ital Volley, malgrado noi stessimo giocando una Champions, una World Cup per le Olimpiadi, non se ne parla. C'è un motivo oscuro o... No, non c'è nessun motivo oscuro. Non c'è nessun motivo oscuro. Andremo a parlare anche di quello, ovviamente, nei prossimi giorni. Guardi, a dire la verità, in questo momento è chiaro, l'Ital Volley mondiale... si gioca per le Olimpiadi, si gioca dall'altra parte del mondo, quindi per un fuso orario difficile, però lei ha ragione, in tutto questo giro del mondo abbiamo trascurato, non nelle parole ma nei collegamenti e nei racconti, la Coppa del Mondo di pallavolo, ma ovviamente sarà argomento delle prossime puntate, tanto siamo sempre qui con tutti i convocati. Non saremo qui domani, saremo qui domenica, giorno cruciale, giorno chiave di questo meraviglioso weekend dello sport, dalle 17 alle 19 con tutti i convocati weekend, con me Giovanni Capuano, ci sarà Pierluigi Pardo e ci sarete come sempre naturalmente anche voi. Ringrazio Giorgio De Luca, il nostro autore, Pietro Corte, e oggi in regia qui a Expo. Ringrazio tutti, appuntamento dunque domenica alle 17. Grazie, buon appetito.